Forse perché altrimenti si rischierebbe di non essere abbastanza democratici. Questo non potrebbe accadere, per esempio, in Gran Bretagna. Ho avuto l'occasione di vivere, per motivi di lavoro, alcuni anni in Inghilterra. Bene, intanto anche ai militari caduti in Iraq o in Afghanistan non si fanno funerali spettacolari, tipo eventi mediatici come da noi, anche se si usa la bandiera sulla bara. Ma mai, dico mai, si vedrà l'Union Jack sulla bara di un turista britannico morto per sfortuna in un attacco terroristico a Bali o a New York. In fondo, un po' di serietà ci vuole, altrimenti sono solo pagliacciate. Giuseppe. A proposito del parallelo che Canale 5 fa tra il premier spiato da Repubblica, che per la verità ha ripreso servizi di altre testate straniere lanciati da uno scoop di Corsera, e il giudice spiato direttamente dalle telecamere di Canale 5, vorrei osservare che un premier settantenne che si attorna di ragazze e per questo motivo viene censurato dalla moglie è sicuramente stravagante e rappresenta quindi una notizia. Un magistrato che fuma, va a passeggio per Milano e indossa dei calzini azzurri non mi sembra una notizia, in quanto non c'è nel suo comportamento nulla di raro, originale o stravagante. Di conseguenza, nulla che sia degno di nota. La pezza, in questo caso, è peggiore del buco. Meglio tacere e chiedere scusa per la pessima figura di un emittente che finora aveva dato prova di professionalità. Marta. Berlusconi viene insultato e calunniato quotidianamente sui giornali. E quando si rivolge alla magistratura per tutelarsi, allora il partito dei giornalisti italiani, sinceramente democratici, protesta in piazza. Un magistrato viene toccato da un servizio televisivo appena un po' sciocco e il partito dei giornalisti italiani, sinceramente democratici, insorge contro il proprio collega che deve scusarsi pubblicamente. È proprio vero che siamo in un regime giornalistico giudiziario sinistro. Carlo. Caro direttore, ancora una volta mi chiedo quali siano le priorità della politica. Il potere fine a se stesso o il bene del proprio paese? È ovvio a tutti che la seconda è la più auspicabile. Il bene del paese, per il bene di tutti, però, costa caro alla politica. Significa riforme dolorose e impopolari, significa perdita di consenso, critiche e spesso biasimo dal proprio elettorato. Il più grande nemico in questi anni sono state le continue elezioni e i sondaggi. È evidente che in Italia, se prometti sudore, lacrime e sangue, sei destinato a perdere. Meglio promettere, regalare e gonfiare così il debito pubblico, tanto quello lo pagheranno i nostri pronipoti. Sono appena finite le elezioni europee e siamo già in campagna elettorale per le regionali. Mi domando se sia stato più importante vincere le elezioni in Sardegna, Abruzzo ed europee o tirarsi sulle maniche dal primo giorno per fare riforme vere e prioritarie per il paese. Come genitore, sono abituato a dire dei no ai miei figli. Sarebbe ora che anche i governi iniziassero a farlo, senza l'incubo di perdere qualche punto di percentuale, perdere una qualche elezione regionale o prendersela con i giornali che devono fare il loro lavoro di critica e controllo sull'operato del governo di turno. Mi domando quando finirà l'ora della ricreazione e inizieremo a riformare questa Italia. Flavio. Caro Flavio, premesso che resta valido il giudizio secondo cui la peggiore democrazia è comunque migliore della più aperta delle dittature, resta il fatto che uno dei problemi di fondo dei sistemi democratici è la necessità da parte degli eletti di cercare il consenso per mantenere la fiducia degli elettori. Questo porta alla tentazione di far approvare leggi e provvedimenti capaci di aumentare la popolarità, anche se lontani dall'interesse generale. Ci sono rimedi? In alcuni sistemi politici vi sono cariche elettive che prevedono la rieleggibilità solo per una volta. Pensiamo alla presidenza degli Stati Uniti. Ma il problema di fondo sta soprattutto nell'etica politica degli eletti. I ministri, per esempio, assumendo il loro incarico, giurano di esercitare la loro funzione nell'interesse esclusivo della nazione. È una regola che tutti dovrebbero avere come obiettivo, l'interesse esclusivo della nazione. Un interesse che non si raggiunge certo sommando tutti gli interessi personali degli uomini politici. Si parla tanto male degli immigrati, ma siamo noi stessi a offrirne il pretesto su un piatto d'argento ai nostri denigratori. Non facciamoci riempire il cervello dalle associazioni corrotte che organizzano feste tribali e religiose. Queste non fanno altro che intascare le vostre quote associative e i contributi delle regioni e vi usano solo per i loro interessi. Non vi dicono come fare per migliorare la vostra situazione e farvi rispettare.